professionali, che ne ho tanti, che sono sempre collegati direttamente all'antenna, perché non ho diciamo portato di mano un commutatore, anche perché non c'è spazio dove mettere. E quelli non è mai successo niente per ora, poi magari la prossima settimana che fa il temporale me li fa fuori tutti e due, però sono apparati testati, proprio di quelli tutti. Poi ho le due antenne altissime, quelle utilizzo degli Alfa Delta con la carica a gas dentro, nel caso ci sia qualcosa di pericoloso. E niente, mentre i dipoli sono la stessa commutazione, e quindi solo capirai, sono 80 metri d'antenna da un lato e 80 dall'altro, perché sono due dipoli, ha voglia di caricarne di cariche elettrostatiche e induttive a Google, comunque non aver pazienza. Insomma, lì deve essere tutto cablato tipo centrale nucleare, lì tra computer, antenne, antennoni, poi, mamma mia. Tu hai detto che hai un bel di discese di cavo, no? Quante ne avevi? Più di 4, più di 5? Più di 5 ce ne hanno tutti. Guarda, solo nel traliccio ci sono la bellezza di 3, 4, 5, 5 antenne solo sul traliccio. Poi ce n'è una sull'altro traliccio, sono 6. Poi un'altra che è a terra, HF, e sono 7. Poi sul tetto ce n'è attualmente altre 3 e sono 10. In tutto arrivano 10 calate di... perché sono tutte collegabili, ci sono 3, 4, non sono di più, sono 11-12 antenne con relative discese, di cui 2 sono in cesso, quindi in puro rame, tutte a distanza di 30 metri, le altre invece sono più vicine per permettere, diciamo, per diminuire la dispersione. Quindi fate il conto, ce n'è, di che aver paura. Insomma, sembra una centrale dell'Enel. Come conformazione, più che altro, non è tanto amatoriale come stazione, che la vedo da fuori, penso che sia roba militare, perché me l'hanno anche oscurata su Google, capito? Perché c'è questo traliccio strano, che in realtà è un punteggio, poi c'è queste 3 antenne altissime, poi c'è queste antenne strane attaccate che sono per altissime frequenze, c'è due direttive autocostruite che sono piccole, poi cosa c'è? Poi c'è insomma è tutto zeppo, a volte, per essere sincero, neanche ci capisco niente qual è il cavo che là, perché ci mette i codici, le etichette, e poi le etichette per un motivo o per l'altro si spacciano, e quindi è un macello. Poi deve vedere, non ci capisco un tubo più neanche di portarsi, sono qua davanti, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 portatili, anzi no, sono 7 perché sono fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 apparati tra VHF e VHF di banda che siano, e 4 apparati, 4, 5, 5 apparati HF, insomma ce n'è un bel, dai, anche io perdo il conto a volte. Insomma, una bella stazione, poi quando hai il posto per le antenne ti puoi sbizzarrire, altro che condominio, per carità, il condominio, sì, volendo, magari essendo anche il proprietario del terrazzo puoi fare qualcosa di più bello, più performante, però mamma mia, te l'ho detto io, cosa avrei potuto mettere facendo l'errore di pigliare la patente? Una CP6, una CP6 Diamond, per carità. Ah, fino adesso non si è lamentato nessuno, ma sono tutte persone comunque con cui io ho dei buoni rapporti. Tutti che io sono circondato praticamente. Allora, davanti c'è i carabinieri, a destra c'ho la polizia agroscientifica, a sinistra invece c'ho la polizia di Stato. Quindi mi manca la finanza, ma solo perché non lo so dove. A problemi di interferenze ormai non ce ne sono mai stati, no? Dall'una o dall'altra parte, no? No. Non avrebbero detto, ma io non è che trasmetta così a lungo, e oggi forse è un'eccezione, ma poi sono appassionato di QRP, capito? Quindi sempre emissioni molto basse, anche in VHF, poi tutto digitale, analogico, sulle altre frequenze non lo so mai, quindi è un'emissione abbastanza pulita. Ma soprattutto parlo col muro, giustamente, perché oramai di radioamatori non mi sento più, a parte qualcuno sull'internazionale, che poi stanno sempre incazzati perché li disturbano. Quindi insomma sto diventando tosta anche lì. Ma infatti ho notato, ho detto, ma è un caso che io anni fa, quando avevo anche ricevuto Rino Texun, no, che usavo in macchina con l'antenna auricolare multibanda, no? Da usare una banda per volta, quella con gli spinotti da, no? Non è presente, le prese calcolate. Sentivo una marea di stazioni, per esempio in 40 metri la mattina, in 20. Adesso con l'SDR, tu dici, quello di Roma, perché non ho praticamente più ricevitori HF, c'è quasi tutta la banda vuota, se ogni tanto senti qualcuno lì, soprattutto in alto fanno i contest, a metà fanno chiacchierata all'italiana, ma ben poche stazioni, cioè prima ogni poche kilohertz c'era un gruppetto di persone che parlava, magari italiani o anche stranieri con di ex contest, adesso sembra molto più vuoto. E questa cosa la confermi? Non sembra, è l'unico punto in cui riesce a sentire qualcuno è in HF, quando c'è qualche contact o qualche cosa, però tutte le attività in generale sono crollate, infatti non ho capito come facciano a campare le ditte tipo Media Globe e gli altri. Io ho qualcuno ad esempio che mi fondo in fa prima, ho visto che non esiste più, è proprio chiuso. Quindi purtroppo è così, no, Marco. I giovani, la maggior parte non ne fa più niente di radio, non sanno neanche cosa è, si è attaccati a questi telefonini, a queste chat, a Facebook. Io vado a vedere cose anche quando vado in ristorante, la gente mica si occupa di quello che sta mangiando, no? Si mette lì a fare la foto del piatto, a mandarla a chissà chi, cioè ma che senso ha? Io vado lì a mangiare, non a fotografarmi il piatto. Sì, devono condividere tutto, anche quando vanno al gabinetto probabilmente fanno la foto alle gambe aperte con la tazza sotto, chi lo sa? Già, una volta gli ho fatto uno scherzo a Claudio, gli avevo mandato una foto mia che ero sul gabinetto, si vedevano solo le ginocchia, si intravedeva il bordo del gabinetto ma senza far vedere. Ecco, attento che ti mando anche il resto, tu saresti capace, ma va detto. Sì, poi la gente è ignorante, proprio guarda, va a mettere le cose che non dovrebbe mai mettere per questo in privacy, convinta che nessuno li veda. In realtà, guarda, te lo dico perché qualcuno lo uso per lavoro, può sapere tutto. Nel momento in cui tu accendi il computer, avvii internet, boh, fatto. fatto, c'è, rimane orario, dove si è andato, il sito di navigazione, cosa hai ricevuto, le mail che hai mandato, guarda, di tutto, di più. Pensa all'NSA, cosa tutto può fare, si annoieranno pure, è troppo facile. Beh, ma una volta messe quelle, guarda, ad esempio quelli di Milano li hanno intercettati, perché loro quando fanno un'intercettazione di un gran numero di persone come potenziali indagati, spesso mettono delle parole chiave, un po' come si usava fare nei tempi della guerra fredda, in cui la parola nucleare era la prima a far scattare gli allarmi, bomba, era uranio e quelle cose lì, capito? Quindi una serie di parole che formano poi dei particolari algoritmi, per cui se iniziano a fare 1 più 1, 2, 2 più 2, 4, a creare dei veri e propri profili d'utenza. Ma soprattutto anche, vabbè, per il commercio a scopi commerciali, no? Che ti bombardano con i prodotti che, guardi, da me è tutto radio, spesso pubblicità radio, AliExpress, Banggood, vabbè, ogni tanto guardo droni, anche se poi lascio perdere perché ho una rottura di palle. Tutto mirato, capito? Per esempio in certi film americani facevano le battute tra loro, no? Gente, prova a dire, dice al telefono Semtex con l'accento arabo, vedi che succede. Poi mi ha ricordato quell'altro film, In ascolto, The Listening, una roba da gelare il sangue, più che altro quello che hanno fatto la tipa, presunta spionaggio industriale, invece era una povera crista che... si può dire una povera crista non c'è, vabbè, che aveva trovato questi documenti top secret di questo sistema Tumbleweed, cosa era? Sì, è un sistema per spiare gli altri telefonicamente, si parla degli anni lontani anni 90, no? Era ambientato negli anni 90, ma l'avrei visto sicuramente, interessante. E anche interessante era il kit di lobotomia chimica che volevo usare su di lei. Guarda, mi si è gelato il sangue lì, eh. Sì. Ma guarda, all'epoca oramai credo che ci sia di meglio, però la sede dell'NSA c'aveva praticamente i PC che erano nel seminterrato, anche per questioni di sicurezza, e lungo il soffitto passavano i tubi che erano ricoperti di ghiaccio, perché erano tubi di azoto liquido che servivano per raffreddare praticamente i vari processori che c'erano. Oramai presumo che sarà tutta roba vecchia, perché i processori adesso sono enormemente più potenti, però per darti un'idea di quello che facevano, tenevano sotto controllo i telefoni di tutti gli Stati Uniti e molti anche europei. Mi era piaciuto anche il film di... poi vabbè, i film sempre ci mettono un po' di fantasia, ma chi lo sa, di quello di Snowden. Sì, Snowden, quello con gli occhiali, non vorrei sbagliare con questi nomi, ormai la memoria non c'è più. Che lo dici. Ma comunque ormai in molti casi la realtà sta superando anche la fantasia, eh. In molti film, tu guarda la pandemia, ci facevano il film e tutti, meno male non è possibile, bang! Vabbè, tante cose anche passate, a parte i film, adesso bisogna verificare le fonti. Che si parlava già anni fa di una esercitazione per una pandemia da coronavirus, anni e anni fa. Boh. E tante altre cose ambigue, comprese quelle Olimpiadi di non so dove, di non so quando, con quella ghiacciante messa in scena di gente malata, ma non so, una cosa strana da far vedere. a un'inaugurazione di Olimpiadi o cosa erano, non me lo ricordo, non vorrei sbagliare. Poi vabbè, molti ci vedono molti indizi, molti no, io non è che sia così, come dire, accorto, ecco, quindi mi riferisco sempre a cose che ho letto da altri, scritte da altri, eccetera, e che non sa cosa c'è dietro. Sì, quante cose che non sappiamo, quante cose che vengono negate, nascoste, ce n'è, solo guardare le cose italiane c'è cioè, da aver paura. Tutte le stragi, tutte le varie manipolazioni, dietro ci sono sempre dei grossi interessi, c'è la verità, in parole povere c'è il male, dai, il male lo raffiguriamo come magari con un diavolo con le corna, mentre invece potrebbe avere un aspetto molto molto più attraente, anzi sicuramente un aspetto molto più attraente, dato che molti poi ci vanno a cadere come dei polli. Anzi forse è meglio non sapere, ma adesso ci sarà comunque il boom dei vaccini, faranno a gara, ci saranno miliardi di dollari, migliaia di miliardi di dollari in ballo, vedrai che ce lo faranno fare, anzi più di uno possibilmente, uno russo, uno cinese, uno europeo, uno americano, uno canadese magari, chi ne ha più, più ne ha più ne mette. Trump sicuramente si farà quello americano, che sicuramente non funziona. Fatto la Bill Gates, che non funziona come sistemi operativi. Ogni tanto fanno l'aggiornamento. L'altra volta, quando era? Due mesi fa, ho dovuto formattare, no, cosa due mesi fa, tre mesi fa, mi ha schiacciato due PC, li ho dovuti riformattare, un affento, perché no, quelli, tra l'altro, con il sistema operativo in inglese. Un casino che non ti dico, ci ho perduto giornate intere per rimettere tutto a posto, guarda. Quando c'è un aggiornamento me ne siamo, perché adesso con 10 non sono dei banali aggiornamenti, ma ti scaricano addosso tutto il sistema operativo ex novo, capito? Tu piano piano togli quello vecchio, infatti ti fa la cartella Windows Load e ti rimette quello nuovo. Però se l'operazione va male sono guai grossi. Come gli aggiornamenti a Android, sì, qualcosa va storto, devi piallare tutto e ricominciare da capo, da zero. Sì, gli aggiornamenti, le patch, gli aggiornamenti, poi le patch per correggere l'errore delle patch, eccetera. Vabbè. Ma invece Apple, il mondo Apple, è tutto rose e fiori come dicono, oppure anche lì parlo di computer, magari non smartphone, roba da tavolo, come lo vuoi chiamare? Vabbè, già capito. Diciamo che molta gente lo vede come la Rolls Royce, in effetti perlomeno, per quello che ho visto io, erano delle macchine eccellenti, ecco. Però come ogni cosa, se non ci stai dietro, soprattutto nell'ambito informatico, fai in fretta e come sei salito scendi subito. Attualmente, a parte forse causa anche i costi eccessivi delle macchine, però sai com'è, se non fai ricerca e se non guardi un po' quello che combina la concorrenza, vai male. Ad esempio sul professionale, adesso si deve configurare radio, certi tipi di server e così via, o c'è Windows o c'è Linux, ma Apple non ne vedi molti. Vero. Comunque tuttora credo che ci sia gente che non non ci mette mai né un antivirus, né gratuiti, né pagamento, né firewall, nulla. E mi ricordo tempo fa, poi non è che ne sapessi più di tanto, venivano da me, ah, non mi funziona più questo. Insomma, poi mai fatto una scansione antivirus, mai fatto un controllo, niente, manutenzione, zero, nulla proprio. Computer allo stato brado. E io non potevo aiutarli in alcun modo. Cosa gli davo? Il biglietto, la visita di via Bucarest, andate lì e avretevela con lui. Non è che ho la scienza infusa, no, sapere cosa avete combinato, cosa avete scaricato, eccetera. Quei bei tempi, inizio 2000, porca miseria, quanti troian, quanta gente infetta. Adesso anche quelli, mi sa che quelli sono entrati in crisi, perché se lo scopo di fare il virus era quello di praticamente capire informazioni, segreti, perlomeno per quello che riguarda i comuni mortali, anche qualche personalità è inutile, perché sai già tutto, basta andare su Facebook, su Twitter e compagnia cantante, su questi social, quelli postano le foto, per delle persone esperte ci vuole poco a capire le tendenze, cosa fa, cosa non fa, che amici ha, sai, con i soliti sistemi di intelligenza artificiale fa un profilo con tutte quelle informazioni che mettono, è estremamente difficile non azzeccare tutto quello che a te interessa. Io non tale ricordo, eccetera, ma anche da me avevano fatto danno parecchio. Tipo il computer zombie che ti avevo spiegato quella volta, che bombardava di pacchetti dati una marea di indirizzi IP, proprio a raffica, una cosa che il processore era al 100% inchiodato. Poi il 98 non ne parliamo, il 98 già di suo mi aveva fatto sputare tanto di quel sangue con quelle schermate blu, però lì c'era un altro problema, secondo me un hardware non azzeccato, si azzuffavano le periferiche tra loro, il sistema operativo più di tanto magari non c'entrava, dai. Invece, vabbè, io mi servivo da via Bucari, bene o male le configurazioni che ti proponevano loro, no? Tra scheda madre e scheda video, erano più che accollaudate, quindi incompatibilità tra periferiche non abbiamo mai avuto. Soliti problemucci, ogni tanto si brucia qualche hard disk, qualche scheda video, insomma, soliti menatti. Sì, a voi lo conoscevo. Ma c'è ancora lì in via Bucari? Nome, cioè, mi ricordo solo che c'era lo stesso Saria, ecco, Saria, lo stesso nome delle formaggelle. Ah, lo so, sì, l'ho detto Saria, però io da un bel po' che non vado più, Il negozio c'è ancora, non ti so dire. Comunque più di tanto non conviene spendere in cose troppo, cosa vabbè che non ho mai fatto, sempre configurazioni medie, niente di spinto, poi giochi, gaming, no, giocare non gioco, non, mi prende la testa, mi prende gli occhi, la vista non è più quella di una volta, quindi me le sono già rovinate abbastanza gli occhi con la televisione, chissà con cos'altro. Con ultravioletti, con laser, intanto qualche piccolo incidente, insomma, l'occhio sinistro non è messo bene, diciamo, dai. A chi lo dice, ma a parte il PC, ho avuto anche l'età e che ne sta passando avanti. Guarda, per il PC ho visto che conviene comprare quelli rigenerati. C'è una ditta che te li garantisce 2 anni addirittura e i prezzi sono bassi, ti prendi, che ne so, un i5 che va via sempre di mezzo, e con un 150-200 euro finisci. C'è una macchina velocissima con tanto di sistema operativo anche, quindi non vai da media volta per i prezzi 1200-1300, ma se fuori testa. Ma tu parli di torri o di portatili? No, sto parlando di anche dei mini PC, però non quelli piccoli, tipo HP 600, quella classe lì che è molto costosa, oppure anche dei mini tower, insomma roba da ufficio, perché loro a volte li ritirano, li controllano, li puliscono bene, li verificano, li riparano, li garantiscono una volta che il lavoro è fatto e tornano nuovi praticamente. Certo, devono essere anche configurazioni adeguate, no? Non processori di 10 anni prima, non credo, non avrebbe senso. Roba usata per pochissimi anni, mesi o anni, dai. Sì, ma gli apparati sono quasi nuovi, apparati molti siano anche, sai, non tutto vendi a volte, no? Quindi li recuperano anche come prodotti che non si hanno venduto o di qualche magazzino che è fallito, e quindi ne hanno tanti. E sono tutti già un i5, insomma, con 8 giga di memoria, non è poco, ecco. C'è un prodotto che si è comprato nuovo e costa un pacco di soldi. In più c'è anche la garanzia, per 2 anni è tranquillo. Vabbè, purché la garanzia copra, perché cominciano a escludere magari, chi lo sa, come venditori del nuovo, no? Batterie non comprese in garanzia, quello non compreso, alla fine di garanzia ce n'è ben poca. Ma dipende dal venditore, così. Non sei caduto, no? Come? No, ho visto che c'era uno stacco, di colpo pensavo che magari c'era mancata la luce. E niente, è così. Guarda, i portatili proprio, non c'è altre alternative, però preferisco lo schermo grande, portatile, troppo, a parte che è delicato, poi è molto rognoso, proprio perché, vabbè, le batterie durano molto, non ce l'ho detto, è un problema. Però sono i pezzi di ricambio che costano un pacco di soldi. E così. Quindi, comunque un i5, certo l'i7 è più costoso, però dipende anche dalla serie, quindi per quello che dobbiamo fare noi ce n'è avanti. Poi tutto l'altro sono esagerazioni. Sì, ma vedo anche su forum ragazzini che vogliono computer da gaming, magari portatili, 2500 euro. Poi non lo so se conviene più una console, Xbox, tutta quella roba lì, o un computer. Tutto processori velocissimi, un RAM a buttarne, che secondo me è più del necessario anche. Non so quanto siano pesanti gli ultimi giochi, poi non me ne intendo niente, io sono rimasto al Commodore 64 dell'amico delle medie, Atari 2006, sempre tempi delle medie, il Leonardo della GIG, qual era l'altro? L'Intellivision, te lo ricordi? Io ero alle medie, penso 82, 83, 81 forse anche, sì. Ma quali sono per giocare, sinceramente? Sono molto potenti comunque, perché hanno delle possibilità di calcolo notevoli. Quelli da gaming, sì, però l'anima, vabbè, vuol dire che i soldi ce li hanno, o i padri più che altro ci hanno i soldi, poi gli presentano il conto i figli. Ma in questi tempi in cui il lavoro è quello che non so quanti genitori siano disposti a spendere cifre così alte, capito? A meno che non sia ricco di natura, allora è un altro paio di maniche. Bene, caspita, dalle 10 devo chiudere, vabbè, il primo film è andato comunque, anche se c'era qualcosa di interessante è ormai andato, vediamo cosa c'è in secondo spettacolo, se non mi devo arrangiare sempre in proprio, mi guardo Zombie di Romero, quello bello del supermarket, dai. Già non ne ha fatti pochi, io preferivo sempre il classico. Ah, quella cavolata lì, ce ne sono zombie dappertutto che tentano di sollevare la Shazam del supermercato. che sembra che sia l'unico in cui ti puoi rifugiare questo supermercato, che scappano dalla città, quello lì. Sì, l'hanno, ce l'ho in DVD, originale. L'avevo trovato a un prezzaccio, tanto era film vecchio, però vedi, almeno lì andavano lenti le zombie, ma negli ultimi film li fanno più, a vedere, tipo infetti, no? Che corrono da tipo centometristi, tipo cosa, come si chiama quello? Bolt, quello che corre con tre gambe, no? Nero. Vabbè, la battuta era quella. Sì, ne ho fatto talmente tanti che è anche difficile ricordarli, guardi, quando iniziano una trama non la finiscono più. Non parliamo di quei poveracci di squali che li hanno massacrati, li hanno fatti giganteschi che si mangiavano anche sommergibili, poi volanti che piovevano dal cielo, guarda, cazzate più grandi non ne ho mai visto. E poi le fesserie tipo, che ne so, Anaconda versus, cos'era, che bestia era? Non so, una specie di anaconda preistorica gigantesca contro una sua bestione, il film è proprio terra a terra. Io invece sto passando notte insonni aspettando l'ultima stagione dei 100, The Hundred, Centos, ma tieni conto delle bestialità che dico, lo dico all'italiana, The Hundred, i 100, ecco, l'ultima stagione e non ne faranno altre. Vedere se riescono, no, non ti, tu a che stagione sei rimasto, Gianfra? Dunque, sono rimasto alla stagione che si svegliano, c'è il loro amico che è anziano, la moglie che c'aveva, o meglio la ragazza che c'aveva è morta, hanno avuto un figlio, e quindi loro si svegliano e c'è questo, c'è il figlio dei loro amici praticamente, che li fa svegliare e guida l'astronave e li sveglia perché sono in vista di un pianeta che sembra abitabile, quindi non so neanche che stagione sia. Cioè tu non hai visto le vicende di quando sbarcano sul pianeta nuovo? No, quello no, però se non sbaglio, come era finito? Era finito che c'era un'altra astronave, credo, e volevano scendere per primi, una cosa del genere, non vuole che si stia confondendo. Ah, porca miseria, non riesco a... Fammi fare mente locale, un'altra astronave. Vabbè, comunque sì, mi ricordo, sì, l'amico vecchio, poi il figlio dell'amico, quello tratti asiatici. Sì, no, io mi chiedevo solo, quindi fin lì ci sei, no, che la Terra è stata abbandonata perché sono riusciti a, l'uomo è riuscito comunque a distruggerla con la seconda ondata di, come la chiamavano loro, Prime Fire, No, e quindi ero curioso di scoprire poi con le puntate se riusciranno a distruggere anche l'altro pianeta nella settima stagione. Voglio vedere se vi fanno fare la fine della Terra. Beh, conoscendo gli umani sicuramente si metteranno di buona volontà a farlo. Comunque anche noi già ce la stiamo cavando bene. Sì, a questo proposito l'altro giorno mi sono visto in diretta TV la Ultimatum alla Terra. D'altronde è così. La prima cosa che fanno, mica si chiedono, ma questi se vengono da un altro mondo sicuramente saranno molto più brutti. Quindi cosa ci fai con i carri armati, con le mitragliatrici a fare buscite di sapone? È presumibile che delle entità di un'intelligenza tale abbiano mezzi ben superiori ai tuoi, che sei in termini di paragone all'arco e alla freccia, anzi forse alla clava. Eppure non è cambiato niente, mi dà la preistoria. Se fosse atterrato uno con lo stesso, con un'astronave lì a clavate, poi il film originale era degli anni 50, giusto, no? Quello con Clatù, anche lì carri armati, coso, qua lo stesso, cioè anche se fosse fra 2000 anni l'uomo sarebbe così, se arriva un coso superiore sarebbe lì pronto con tutta l'artiglieria, ma invece di tenere un profilo basso, no? Come in caso dei posti di controllo, no? Lì subito gli hanno pure sparato alla protagonista lì, Clatù. E poi mi piaceva come diceva, io sono amico della Terra, no aveva detto poi, sono qui per salvare la Terra, no? Però poi ha specificato, la tipa se l'è piagato, dice, tu sei qui per salvare la Terra da noi. Beh sì, perché avevamo preso l'incarico, diciamolo così, che siccome i pianeti simili alla Terra erano molto pochi, in qualche modo li dovevano preservare. Ma chissà quando arriva qua, prima che sia troppo tardi. Se deve venire qualcuno a tirarci le orecchie è meglio che venga in tempo, Ma io confido di più in un asteroide che faccia piazza pulita. Mi sono perso però, dove volevo arrivare, vabbè. Ah sì, che poi praticamente alla fine del film lui blocca quelle specie di nanomacchine, quegli insetti che divoravano quanto c'era, ma poi si è spento tutto sulla Terra, tutto ciò che era elettrico, sicuramente un impulso elettromagnetico gigantesco, praticamente li ha spento il pianeta, li ha ricacciati nel Medioevo gli umani, niente più roba elettrica. Vorrei proprio vedermi con tutti i miliardi di bestie e di abitanti che ci sono, se si fermasse tutto all'istante, tutto ciò che è elettrico, elettronico, mamma mia! Beh, molti morirebbero indubbiamente, ci sarebbero guerre, carestie, quindi, ma io invece mi sto facendo una convinzione che come dire, allora tutti ci stanno dicendo, secondo i dati che purtroppo sono veri, che stiamo già da qualche anno consumando quello che non ci abbiamo, nel senso che tutto quello che produce la Terra e che in teoria si dovrebbe rigenerare non si può più rigenerare perché abbiamo passato quella linea, quindi ci stiamo avvicinando praticamente al punto definitivo di non ritorno, se già non ci siamo, sia dal punto di vista climatico ma anche dal punto di vista delle risorse. E quindi uno si chiede chi sarà il più forte, chi vincerà? Sarà il numero tipo l'India con credo che sia 1 miliardo e 250 milioni di persone, oppure saranno gli Stati Uniti con le loro mini bombe atomiche che però non risolveranno niente, perché alla fine a quello si arriva. A me mi corre il rame, tu me lo dai, ma il rame è mio e io me lo prendo lo stesso perché a me mi serve. Ho abbassato la potenza al minimo perché qua è al calor bianco e il dissipatore è veramente al calor bianco, rovente. Questi apparati, non smetterò mai di dirlo, scaldano bestia, mi danno un crepo che non hai idea. Vabbè, colpa mia però perché ero... insomma, era alto, vabbè. Che dire? Già fra, io sono un po' per l'ora, un po'... comincio a essere meno lucido. Mi sa che vorrei chiudere, da. Anche io non mi ero accorto di che era forte. E quindi anche io ti saluto. Ma anche a carattona oggi. Vabbè che poi c'è anche il vento. Non si può fare niente. Quindi. Vabbè dai Marco, buonanotte. Ci sentiamo alle prossime. Se c'è qualcuno in ascolto, salutoni. A domani. A domani, o fra qualche settimana, qualche mese, tanto lo sai come sono io, no? Penso giorni e giorni che non entro. E poi sto un giorno magari fino a tardi. Porca miseria. E non sono molto costante. Vabbè, tanto mi assare tutti i giorni anche non mi piacerebbe, non più come una volta, tutti i giorni no. Ok, dai, sentiamo, tanto non è che vado a dormire, chi dorme? Io tanto so già che non dormo, mi attaccherò alla TV, poi all'alba circa vado, mi metto a letto, bene o male il fisico crolla. Infatti, da me sta già crollando perché io ho fatto... le ore piccole tentando di farmi vedere da un microfono, sono andato a l'una quasi con una saldatura e l'altra, quindi adesso me ne vado e vediamo un pochino. Comunque il vento sta riprendendo, mi accorgo perché i fischi aumentano, probabilmente se mi sto zitto li senti anche tu. E adesso la troppo tanto. Per rispetto adesso non l'ho fatto. È anche il vento rispettoso. Ehi, vabbè lì zona più aperta, però qui ne sento molto ma molto meno che non il pomeriggio. Il pomeriggio qua stava sbraitando forte il vento. Lo vedevo anche dalla parabola qui all'angolo, un pochino oscillava lievemente. Bene, dai, buonanotte, ci sentiamo quando capita, ok? Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.